Il parlatorio era una veranda chiara, tutta calda di sole, piante di geranio, di begonia nei vasetti di terra lungo la vetrata. Nessun altro aspettava e ne fu sollevata. C'era, tra quelle pareti bianche, un silenzio di ospedale. Tintinò una campanella nel giardinetto e poco dopo entrò una vecchia suora che, inchinandosi rispettosamente, chiese: «Buongiorno, signora, e la vuol vedere la piccola Stefania?» Emanuela assentì, la gola stretta. «Lei è...» Emanuela piegò la testa, poi disse a bassa voce: «Sì, la mamma». Di nuovo la suora si inchinò. «Abbiamo ricevuto la lettera di suo padre. La bambina è stata felice all'idea di rivederla. È cresciuta, è brava». E prima che Emanuela replicasse, aggiunse: «È qui». Emanuela guardò verso l'ingresso. La commozione la soffocava, le formava un groppo doloroso in petto. La bambina apparve sulla porta e lì si arrestò, guardando la madre con occhi intenti. Era una cosettina bionda, Stefania, alta così. Le treccine annodate sugli orecchi, il viso aggrottato per l'intensità dello sguardo, poiché la suora era scomparsa. Emanuela, singhiozzando, si precipitò sulla figlia, la strinse, la sollevò. Stefania, fissandola, le chiese tranquilla: «Mammina, hai portato le caramelle?» Emanuela restò come presa in fallo. «Oh no, no, le caramelle, no, Stefania». «La cioccolata, allora?» «Neppure». «Ho capito, è la bambola», e la piccola cercò attorno. «Nulla, amore mio, oggi non ho portato nulla, ma domani vedrai, domani». «No, tutte le mamme portano le caramelle o i giocattoli. Le suore dicevano che mi avresti portato i dolci tornando dall'America. Hanno detto la bugia. Dicono anche loro le bugie. Non ci sono dolci in America?» «Sì, ce ne sono. E allora perché non li hai portati?» E ripeteva: «Tutte le mamme portano i dolci e io sono stata buona, très sage». «Brava, Stefania. E di, mi vuoi bene?» La bambina accennava di sì con la testa. «Hai aspettato la mamma, vero?» Sempre Stefania diceva di sì, tutta occupata a toccare la pelliccia della madre. «Sei contenta che io sia qui?» «Certo. E verrai anche domenica?» «Oh, sicuro. Tutte le domeniche, sempre, sempre verrò. Ecco, e allora domenica portami le caramelle». Emanuela promise e poi non sapeva più cosa chiedere. «Mangi bene? Ti senti bene?» La piccola annuiva. «Sono gentili le compagne». E così di seguito, finché la bambina le domandò: «Posso aprire la borsetta?» Felice Emanuela gliela tese, ma prima le disse seria: «Stefi, qui dentro c'è una fotografia per te, del babbo. Dammela!» Dopo che l'ebbe avuta, restò un attimo a guardarla. Poi, d'improvviso, battendo un piede per terra, disse duramente: «Voglio che venga il babbo, che venga subito!» Emanuela guardò sgomentata la figliola. «Vuoi bene, vero?» a bassa voce le chiese. «Vuoi tanto bene al babbo?» «Sì!» Stefania rispose distrattamente. «Sai, le compagne non credono che il mio babbo è aviatore. Voglio che venga, così lo vedranno se è aviatore. E mi porterà un piccolo aeroplano?» Non dette alla madre neppure il tempo di risponderle. Aggiunse con impazienza: «Senti, le compagne giocano. Adesso torno con loro». Era finito, Emanuela pensò, finito. Questo colloquio, dunque, era la cosa per la quale lei aveva tanto lottato e si era difesa. Non aveva desiderato che questo incontro, questo, per 2 anni era stato il suo segreto scopo, e adesso le sembrava che tutto fosse dissolto, svanito, un'illusione. «Avrei dovuto portare le caramelle», si diceva. «Certo, tutto è dipeso dalle caramelle, ma come avrebbe potuto pensare a questo? Era divorata dall'ansia». «La colpa è mia, la colpa è mia». Aveva voglia di piangere. Credette che da un nuovo contatto con la figlia qualcosa sarebbe rinato. Non era tutto distrutto, forse, perciò prese sui ginocchi la bimba, le carezzò i capelli, le guancette sode, la guardò negli occhi. Aveva occhi severi, poco infantili. Tacevano, non sapevano più che cosa dirsi. Guardando al di sopra delle spalle della madre, Stefania ascoltava attenta le voci, le risa delle compagne. Si mostrava tanto impaziente che Emanuela la lasciò scivolare dai ginocchi. «Tornerò domenica», le disse. «Sono venuta a Roma apposta per esserti sempre vicina. Ti porterò le caramelle, la cioccolata e la bambola. Come la chiamerai la bambola?» «Vorrei chiamarla come te, ma Tu come ti chiami, mamma? Fuori la porta del collegio era aperta campagna. Emanuela si incamminò a piedi, guardando, sotto il viale e alla lontana, la città stendersi bianca e rosa al sole. Non era freddo. Aprì la pelliccia, sollevò la veletta. Pensava a papà e mamma, la villetta di Maiano, la sua camera, il letto con la coperta a fiorami, la sala da pranzo, le cene sotto il grande paralume verde che spandeva un cerchio di chiarità sulla tavola, pranzi silenziosi, ostili, da quando Stefani era stata tolta alla nutrice in Svizzera ed era stata mandata in collegio a Roma senza che lei potesse rivederla, inventando con le suore quel suo viaggio in America. Emanuela non parlava quasi più ai genitori. Buonasera papà, buonasera mamma. Ogni pochi giorni la solita scena. La ragazza entrava nello studio del padre verso il crepuscolo e gli usava sedere accanto alla finestra aperta, una coperta sui ginocchi, contemplando Firenze, le colline, i tetti rossi delle case che spuntavano tra il verde. Nello studio semibuio, il quadrato di luce della finestra illuminava la faccia del vecchio. Lei cominciava sempre così: papà, Emanuela. Senti, papà, che c'è? Voglio andare a Roma da Stefania. È deciso che tu rimanga qui. Ma papà, capisci, è inumano. Non posso vivere senza la bambina. Stefania, è deciso così, Emanuela. Il vecchio riprendeva a leggere o a guardare fuori e la ragazza usciva piangendo. E la madre neppure ardiva a chiederle com'era andata. Emanuela saliva in camera sua, si buttava sul letto, al buio. Non c'era rimedio. Come avrebbe potuto fare? Andarsene da Firenze senza un soldo era impossibile. Non possedeva che l'anello di Stefano. La madre spesso diceva: Il babbo ha ragione, Emanuela. Da allora, hai visto? Ha cambiato umore, è come se l'avessimo perduto. Renditi conto anche tu, Emanuela. Lei si rendeva conto, infatti. Usciva a piedi, sola, per lunghe ore. Talvolta incontrava le amiche. Oh, Emanuela, non ti si vede più, sei smagrita. Nessuno sapeva la verità. Tornava a Maiano a piedi, così. In attesa trascorrevano giornate inerti, mesi, finché una sera, entrando nello studio del padre, che faresti, papà, se io me ne andassi? Chiese. Che dici, Emanuela? Dicevo che vado via, a Roma. Lavorerò, farò qualunque cosa, ma basta così. Lo so, sono colpevole, sono il disonore della famiglia, ma basta adesso. Seguitava risoluta. Ho deciso che basta. Me ne vado. Ho 24 anni e me ne vado, papà. Nella penombra dello studio, il vecchio scrutava il viso ardito della figliola. Diceva la verità, se ne sarebbe andata. Chinò la testa, si guardò le mani, sempre scosse da un tremito. Vedremo, Emanuela, rifletterò. La ragazza uscendo disse alla madre: Ha detto che rifletterà. E anche lei capì che la figlia se ne sarebbe andata. Trascorsero ancora giorni di attesa. Emanuela diceva buonasera al padre con maggiore dolcezza, guardava già con rimpianto la vecchia casa, il giardinetto, sapendo che li avrebbe abbandonati tra poco. Girava per Firenze come una forestiera. Era la fine di settembre, non era più caldo. Le foglie dei viali morbidamente cadevano e formavano a terra un tappeto giallo che scricchiolava sotto il solitario passeggiare della ragazza. Il cielo aveva una lucida purità già autunnale. Certe volte Emanuela s'affacciava al Ponte Vecchio verso sera, quando s'accendevano i lumi delle botteghe. Gente saliva, scendeva il ponte, prendeva acqua alla fontanella, ma lei guardava i ponti scavalcare il fiume di un balzo, giù, giù fino alla carraia. Guardava sulla riva a destra le case nascere dall'acqua, annerite dal tenace sciacquio della corrente. L'Arno scorreva, così placido, che non si capiva da che parte andasse. Se una foglia cadeva nell'acqua, il fiume tranquillo, com'era, la portava a spasso, in trionfo. Emanuela aspettava la decisione. Basta finalmente con la bugia che papà metodicamente scriveva a Roma al collegio di Stefania. Mia figlia è in viaggio in America. Pensava forse che lei a poco avrebbe dimenticato la bambina. Vorrei che tu ti rifacessi una vita come deve essere, così le diceva sempre. Emanuela rientrava appena in tempo per la cena. Il giardino era già umido d'ombra, la terra bagnata emanava un odore che le era familiare. La tavola era pronta sotto il grande occhio di luce. Buonasera, papà, buonasera, mamma. Si toglieva il cappello, si passava la mano sulla fronte. La minestra calda le metteva dentro un tepore benefico. Una sera, discorrendo, fece: Quando sarò a Roma? Il babbo non la contraddisse e lei, prima di andare a coricarsi, senza parlare, l'abbracciò. Ormai pensava alla bambina come se già l'avesse lì. Le pareva di vedere di un tratto aprirsi la porta e Stefani entrare. Ripensava a quando si trovava nella clinica in Svizzera. Giorni umilianti. La mamma l'assisteva, ma come se fosse malata di un altro male. Mai parlava della bambina. Era come se, pur essendo vicino a lei, nella culla, Stefania non esistesse. Ricordava quando, dopo, andava a trovarla dalla nutrice. 2 ore di treno secondario, una collina chiara, dove di prato in prato rimbalzava il dindinio delle mucche. Quella volta che, arrivando, la intese dire «Mamma!» Restò lì in un improvviso stupore, pensando: Mamma sono io! E tuttavia non le sembrava vero, poiché andava a trovarlo soltanto ogni 15 giorni, non la vedeva crescere accanto a lei. Era come se ogni volta trovasse una bambina nuova. Chissà come l'avrebbe trovata cresciuta adesso. 2 anni che non la vedeva. Finché una sera il babbo la chiamò dallo studio: Emanuela! Lei stava leggendo nella stanza accanto. Dapprima credette di aver sentito male. Papà non chiamava mai nessuno. Nessuno doveva entrare quando egli stava nello studio seduto alla finestra. Ma la voce la cercava di nuovo, inquieta. Emanuela! Forse ha freddo, vuole una coperta. Accorse. Entra, Emanuela, chiudi la porta. Siediti. Lo conosceva bene, papà. Aveva tutto un discorso sulle labbra. Certo, si trattava di Stefania. Cara voce di papà. Adesso camminava adagio, Emanuela. Oltrepassata la periferia non ci sono più alberi, ma strade nuove, asfaltate, lucide. Lei cammina e riode in sé quella voce con l'accento commosso di quella sera al crepuscolo. Ho riflettuto, Emanuela, è giusto che tu vada a Roma. Dallo sgabello, la ragazza si lasciò scivolare ai ginocchi del padre, la faccia nel caldo della coperta contro il duro dei ginocchi piegati. Da un anno lottava e in quel momento invece scuoteva la testa come se non volesse partire più. Cammina Emanuela, già è dentro la città e risente contro la gota il calore rude della coperta. Mamma aspettava, seduta nella stanza da pranzo, una mano sulla tavola. Povera mamma, come è sua abitudine. Tutte e tre sapevano che era inevitabile, tutte e tre avevano il cuore stretto come una noce, e tuttavia la pena di Emanuela era più leggera. Era una ragazza giovane, la sua vita poteva ricominciare. La luce calava a stento. Nella penombra si distinguevano solo i chiari occhi di papà. Papà parlava, diceva che era giusto che lei andasse a Roma. L'aveva capito, ma sola no, con loro due nemmeno. Com'era possibile? La mamma qui ha il giardinetto, la macchina, le sue amiche. Alla nostra età non si fanno più nuove amicizie, tante cose. E poi soffre sempre per i reni e a lui basta del mondo quello che vede dal quadrato della finestra e quello che legge nei libri. Poi tutto ciò lo ha scosso troppo, è vecchio ormai e non vuole affaticarsi e morire come potrebbe morire lasciando quella figlia così. A meno che per i tanti dispiaceri il cuore un giorno non gli si schianti. Sì, non ti scusare, sei stata vittima anche tu ormai. Vedi, non ti dico più nulla, non ti rimprovero. Ma il fatto c'è, il fatto esiste e bisogna portarne le conseguenze. Anche la bambina, poverella, non piangere, figlia mia, ma insomma il colpo è stato tremendo e quella povera donna di tua madre da allora si è ridotta così. A Roma, sola, dunque no, perché finora giudizio con gli uomini non hai dimostrato di averne. E già basta questa tragedia che ti devi portare per tutta la vita. A Roma sola dunque non si deve, non si può. C'è a Roma un collegio, sì, un collegio per signorine, come si dice adesso. Un pensionato. Si esce durante il giorno, quanto si vuole, per studiare. A quella data ora si rientra. Che ora? Oh, non lo so, le 7, le 8. Sì, suore sono. E perché? Chi dovrebbe saperlo che vai a trovare la bambina? Tu esci e nessuno ti domanda dove vai. Dirai alle suore che sei lì a studiare un po' finché noi torniamo da un viaggio, un lungo viaggio in America. Anche qui a Firenze agli amici si dirà che vai a studiare. Eh già, sì, lo so, è penoso mentire, ma Si dirà così, non si può altrimenti. Per me, la posizione mia. Si dirà che vai a Roma a studiare la storia dell'arte. Non si può far sapere a tutti che c'è una bambina così, senza padre. Disgraziato anche quello, sì, ma 30 anni aveva. Un uomo che vola ed è sempre esposto al pericolo, pace all'anima sua, ma poteva pensarci. Era una domenica così, come ora, che Manuela camminando ripensava a tutto ciò. Il cielo era tutto arricciato da cirri che parevano di panna montata. Spirava un'aria mite intorno. Le famiglie passeggiavano lentamente, le donne con passo molle, muti i bambini che si volgevano passando dinanzi a ogni caffè per vedere se entrava a mangiare la pasta. Le pareva di non essere mai stata a vedere la figlia. Ogni sensazione era già svanita. Le rimaneva solo nella mente qualche parola. Mi hai portato le caramelle? Tutte le mamme portano i dolci. Tutte le mamme. E che mamma era lei? Si vergognava di esserlo. Aveva una fotografia di Stefania accanto al letto. Chi è quella bambina? Le aveva chiesto Milly. Lei aveva risposto distrattamente. Ah, una mia nipotina. E intanto si proponeva di togliere di lì quel ritratto perché non potessero supporre nulla le compagne. E che compagna era lei? Si scostava di dosso la pelliccia. Che giornata tiepida, proprio un tepore domenicale. Papà e mamà a Firenze saranno usciti a passeggiare in macchina. Pensano alla figlia. Si prendeva il loro nome, i loro denari, mandava poche lettere, lettere di collegio. Papà, sto bene, mamma, sto bene. In casa, al Grimaldi e con Stefania. Ovunque ella aveva una vita diversa e un volto per ciascuna. Ma com'era lei, veramente? Bisognava avere la forza di chiamare le compagne e dire: sentite, tutte bugie, vi ho raccontato. Ma forse tutte si sarebbero allontanate sapendo che lei era sull'altra sponda. Dicevano sempre così: questa è la sponda dell'attesa. E dopo questo scoraggiante incontro con la figlia, Emanuela temeva di non avere niente da attendere dalla vita, più nulla. Una grande stanza alta e oscura, quella della madre superiora. In un angolo il letto bianco, dissimulato da una cortina bianca, sembrava il catafalco di un bambino. Bianche le pareti, l'inginocchiatoio, il cuscino dell'inginocchiatoio era gonfio e intatto. Si capiva che ella non vi pregava mai. Le sedie ricoperte di rosso, rosso il tappeto sul tavolino. La stanza era pregna di odore di incenso e di cera, come se lei ne riportasse ogni giorno un poco su dalla cappella, tra le pieghe dell'ampia gonna. Vecchia era la badessa, vecchissima. Aveva le mani grasse, burrose come il viso. Il suo solo compito era ormai quello di farsi accompagnare, sorretta, giù nella cappella. Il suo solo sacrificio, quello di risalire le scale. Per il resto della giornata sedeva in poltrona, nell'angolo più buio della stanza, i piedi sul panchettino. Entrando non la si vedeva, si pensava è a letto sotto il catafalco bianco, adesso apre uno spiraglietto, e invece si udiva il rosario tintinnare, la voce chiedere severa: chi c'è? E sulla guida della voce si vedevano due occhi di pietra grigia fissi guardare nella penombra. Quando lei entrava in cappella, le ragazze chinavano la testa, come se passasse una morte in odore di santità. Due giovani suore la sorreggevano e con cautela la deponevano sulla poltrona nel fondo della cappella, dove ella le congedava con un cenno della mano che era insieme di sufficienza e di benedizione. Quelle scalpicciavano via leste, sgonnellando molli inchini di qua e di là. La superiore incrociava le mani sul grembo e guardava incuriosita l'altare, quasi aspettando che uno spettacolo incominciasse. A funzione finita, le due suore, delicatamente, la riportavano su come un oggetto fragile. Faceva le scale a fatica, ansando, ma rassegnata si proibiva di lamentarsi. In sua vece sospiravano le suorette, a ogni scalino dove ella si soffermava per riposarsi, una di loro sbatteva svelta svelta le palpebre sul bianco dell'occhio alzato al cielo. Chi comandava in realtà era suor Lorenza, bastava vederla quando scodellava la minestra alle ragazze. Girava gli occhi attorno, contando le teste delle fanciulle come capi di bestiame. Tutte, ci sono tutte. E intimamente gioiva, sentendo le rinchiuse con lei, dietro i finestroni che imprigionavano la loro giovinezza, le loro notti, i loro risvegli. Era lei ad aprire la posta al mattino. Ragazze scrivevano da ogni parte d'Italia, dall'estero anche. Ella rispondeva con una calligrafia chiara, invitante, scriveva con tenerezza materna, e quando quelle avevano risposto che accettavano, venivano, ripeteva molte volte il loro nome tra sé, lo accarezzava quasi. Poi, bruscamente, lo trasformava in un numero. Ripeteva nome, cognome, numero. Quando una nuova ragazza giungeva e la campanella la chiamava al parlatorio, lei si acconciava in capo il velo, specchiandosi nel vetro della finestra, e si chiedeva ansiosa: come sarà? Come sarà? Poi entrava, le parlava con contenuta dolcezza, ma non parlava mai in prima persona. Era sempre la superiora che, la superiora vuole, dirò alla superiora che, lasciando immaginare misteriosi colloqui tra lei e la vecchia badessa. Godeva vedendo che la nuova arrivata, ascoltandola, osservava le sue labbra, le sue mani fini, la figura alta, snella. D'estate, quando le ragazze andavano a casa, suor Lorenza impallidiva, veniva presa da un gran malessere. È sfinita, dicevano le compagne. Ma quando le sere cominciavano ad accorciarsi, verso il tramonto, saliva a recitare il suo ufficio sul terrazzo, un terrazzo alto sulla città, sulla villa. Ridiscendeva, stringendosi nello scialletto per il fresco. Si sente che è autunno, pensava rallegrandosi. In autunno ritornavano le ragazze. Hai passato bene le vacanze, figliola mia? Ma non voleva sapere nulla della casa dove abitavano, anzi, evitava di parlarne. A sera s'addormentava, beata. Nella camera della superiora era acceso un lume fasciato di bianco. In quella luce flebile le cose prendevano fantastici aspetti. Le mani della superiora parevano d'avorio. Suor Prudenzina, immobile, vicino all'inginocchiatoio, taceva. Poi, d'improvviso, si muoveva. Faceva due passi, finché, sentendo tintinnare il rosario, si ricordava di essere in camera della madre e si riaccostava alla parete, le mani sotto il grembiule. Era già tardi, avevano udito le ragazze salire nelle loro camere, parlando ad alta voce nelle scale. Suor Prudenzina, traendo di tasca l'orologio appeso al cordoncino nero, «Tra poco dovrò salire a spegnere la luce», disse. Avrebbe voluto parlare con la madre, ma questa seguitava ad agitare il rosario in silenzio, forse dormiva. Infine la porta adagio si aprì e Suor Lorenza apparve. Suor Prudenzina la fissò interrogativamente. Anche gli occhi assonnati della madre si volsero a lei. Niente, fece Suor Lorenza sconsolatamente. Voi avete ragione, Suor Prudenzina. La suora portiera dice che l'ha vista uscire con un pacco sotto il braccio. Avrebbe forse dovuto chiederle: ma sorella, ogni ragazza può uscire con un pacco? L'altra aprì le braccia e disse: è vero. Chioccia s'udì la voce della superiora. Non c'è che dire, ormai è scappata. Tutte e tre rimasero a immaginare la fuggitiva. La vedevano sgusciare dal portone del collegio, correre per le strade, volgendosi intorno circospetta. Suor Lorenza ricordava di averla vista a mezzogiorno in refettorio. L'era passata dinanzi salutandola con un lieve cenno del capo, come sempre. Aveva già preso la sua decisione a quell'ora e lei se l'era lasciata sfuggire di mano senza accorgersene. Un carattere difficile, quella ragazza, inasprita dalla povertà, veniva a pagare la pensione con i denari contati. E i soldi? Già, e i soldi? Bisogna avvertire i parenti, suggerì la madre. Scrivete voi, suor Lorenza, chissà che non sia andata a casa. Ma intanto le compagne? Beh, si dirà che è tornata a Veroli. Non lo crederanno, le scriveranno e... Sì, lo sapranno subito, e invogliate scapperanno tutte a una, insinuò con un sorriso Suor Prudenzina. Rimasero assorte, angosciate. Suor Lorenza avrebbe voluto scendere sulla porta ad aspettarla. Era fuggita all'aperto, chissà, certo con un uomo. Suor Lorenza non avrebbe potuto dormire la notte. Quel vuoto nel letto della camera 33 le avrebbe tenuto il sonno sospeso. Scapperanno tutte. No, si sarebbe messa lei stessa sul portone, le avrebbe fermate. Dove vai, figlia mia? Le avrebbe riportate nelle loro camere. Suor Lorenza, la scosse la voce della superiora, direte alle compagne che è andata a casa, che la madre stava male. Non si deve sapere che da noi, al Grimaldi, una ragazza è scappata. Tutti lo sapranno, disse freddamente Suor Prudenzina. Son cose che non si nascondono. Suor Lorenza fece già, e poi noi lo sappiamo. Tintinò il rosario nelle mani della badessa. La sua voce irritata ribatté: Noi non lo sappiamo. Una ragazza è tornata a casa sua, nient'altro. Noi non sappiamo altro. Avete capito, Suor Lorenza? Udirono bussare alla porta dello studio attiguo. Le due suore si guardarono. La badessa tornava a chiudere gli occhi, non avvezza a vegliare così tardi. Si picchiava più forte alla porta e allora Suor Prudenzina andò ad aprire. E dalla stanza contigua giunse la voce di Silvia. Voglio parlare alla madre. La madre dorme a quest'ora. Suor Lorenza, allora. È in camera sua, adesso io salgo a spegnere la luce. No, Suor Lorenza è là dentro, voglio parlare alla madre. Allora Suor Lorenza si mostrò. Che vuoi, Silvia? Chiese sul solito tono che sembrava ostile. Anche la ragazza si irrigidì. Voglio sapere dov'è Xenia. Xenia è partita, fece l'altra con calma, tirando la tenda che separava lo studio dalla camera della madre. È andata a Veroli, Xenia. No, la sua roba è qui e non sarebbe partita senza salutarci. Ha un carattere strano. Ma a noi non avrebbe fatto questo, ci voleva bene. Ha detto che rimaneva in casa. Dov'è andata, Suor Lorenza? Ti dico che è a Veroli e ora tu vai a dormire. Vai a studiare. Basta, Silvia, davvero. Ma l'altra impallidì. Suor Lorenza, ce lo dica. E poi gridò. Si è ammazzata! Un silenzio si ghiacciò tra di loro. Silvia, spaventata dal suono delle sue parole, si era messa a singhiozzare. La suora era rimasta impietrita. La ragazza insisteva. Noi siamo le sue compagne, lo dobbiamo sapere. Dica, è così, vero? Suor Lorenza scuoteva la testa. Non lo so, figlia mia. Non sappiamo nulla. È andata via con un pacco oggi e non è ritornata. Neppure un rigo, una parola. Hai visto la camera? Tutto in ordine. È scappata. Non mi ha detto nulla. È andata via. Ha portato la roba con sé. Sembra qualcosa. O forse la colpa è nostra. L'abbiamo accusata di aver agito segretamente. Invece dovevamo aiutarla, offrirle tutto ciò che avevamo. Dove sarà adesso? Suor Prudenzina cominciò. Silvia, tu devi dire alle compagne la verità. Dirò la verità perché pensano che abbia fatto una pazzia e piangono. La suora sorrise agro e disse: Mi sembra che sì, anche questa è una pazzia, ma in fondo l'esistenza è sua, può farne ciò che crede. Eppure la sua camera vuota ci sembra un cimitero. Fece una pausa e poi vado su, soggiunse. Vado su. Buonanotte, Suor Lorenza. Buonanotte, Suor Prudenzina. Ah già, lei sale per la luce. Passi pure. Sarà terribile stare a lume di candela stasera. Siamo impressionate. Passi, passi, Suor Prudenzina. Suor Lorenza rimase sola nello studio. Sul tavolo era aperto il registro con i nomi delle ragazze. Scorse le pagine, andò alla lettera C, Coppola, Corsi, Costantini, Costantini, Xenia. Scrisse la data, 2 dicembre 1934. Poi cancellò. Nome e cognome con due linee diritte, la penna intinta nell'inchiostro rosso.